Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salvadanaio ad una nuova puntata. Oggi prendiamo ad esaminare alcuni aspetti della manovra di Ferragosto. Al momento, per la verità, lo sapete bene, possiamo affrontare solo pochi temi, quelli che possiamo dare per certi. Tanti provvedimenti infatti sono ancora in alto mare, sta appena cominciando la discussione in Parlamento e chissà se rispetto al decreto del 13 agosto ci saranno molte modifiche e di quale entità. Sembra certo per esempio che il contributo di solidarietà possa essere cancellato per far posto ad un aumento dell'IVA. C'è la discussione sul tema delle pensioni che, come sapete, la Lega non vuole che si tocchino, ma un intervento è richiesto da più fronti. Insomma, l'elenco è lungo. Nella manovra però ci sono anche delle misure che intervengono per esempio sull'uso del contante, intensificando gli strumenti di lotta alla circolazione di questo. Si tratta dell'ennesimo intervento che viene fatto nel campo del trasferimento di contante e assegni. Solo negli ultimi 4 anni il limite all'utilizzo del denaro contante è stato modificato appunto 4 volte. Oggi cercheremo di capire quali sono i nuovi tetti e i nuovi controlli sui pagamenti cash. Perché riteniamo che questo è un provvedimento che non verrà modificato? Perché intanto una misura deve essere subito attuata entro il 30 settembre, riguarda molti risparmiatori che per esempio utilizzano i libretti di risparmio. Allora cercheremo appunto di darvi tutte le indicazioni sulle cose da fare. Attenzione alle sanzioni, perché possono arrivare anche al 40% dell'importo in contante trasferito se questo non rispetta le nuove soglie. Ieri il tema era al centro di un primo piano sulle pagine del Sole 24 Ore. Oggi abbiamo convocato tutti gli esperti che hanno scritto sull'argomento per farci conoscere tutte le novità, che sono tutte estremamente chiare, anche se qualche dubbio applicativo riguarda ancora gli assegni, perché ad esempio occorre capire come ci si deve comportare se si maneggia un assegno emesso prima del 13 agosto ma incassabile solo successivamente a tale data. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi alla collega del Sole 24 Ore Rossella Cadeo, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. E i due esperti in materia fiscale del Sole 24 Ore, Antonio Iorio, buongiorno. Mi sente? Non c'è ancora, ma lo recuperiamo fra qualche istante. Non controllo mai appunto se le linee telefoniche sono attive. Chiedo scusa a Gaia e a Pietro Lacorte, però c'è Benedetto Santacroce, professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma e altro esperto appunto di tutte le misure antiriciclaggio. Santacroce, buongiorno e bentornata a Salva Danaio. Buona giornata. Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora, naturalmente radioascoltatori che possono intervenire chiamandoci all'800240024 oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa, allora, la borsa era partita molto bene stamattina. Alcuni indici mantengono un discreto rialzo che è superiore al punto percentuale, anzi è superiore al punto e mezzo a Parigi e Francoforte. Londra più 1,37, Milano partita brillante, anche Piazza Affari con un rialzo che il punto e mezzo lo superava abbondantemente, adesso lo ha ridotto a più 0,22%. Cosa è successo? Che hanno cambiato direzione tutte le banche. Ancora una volta bisogna capire cosa sta succedendo appunto su questo settore, che al momento viaggia in territorio negativo. Il peggior titolo è il titolo che ieri invece è stato tra i migliori, la Popolare di Milano segna un meno 3,63%, Monte dei Paschi meno 2,78%, Mediobanca meno 2,27%, Ubibanca meno 2,11%, Intesa meno 1,72%, Banco Popolare meno 0,9%, Unicredit meno 0,7%. Questo l'andamento del settore, mentre i migliori titoli di Milano in questo momento sono Parmalat che segna un più 3,58%, Campari più 2,85%. Per Campari c'è una raccomandazione positiva degli analisti di JP Morgan che hanno alzato il giudizio a neutral, quindi questi operatori appunto mantengono un atteggiamento neutrale sul titolo, però è stato aumentato il target di prezzo. Eni, sulla scia dell'evoluzione della crisi libica, sta correndo insieme a tutti i titoli del settore petrolifero. Eni guadagna il 2%, ma va bene anche Saipem più 1,14%. Stamattina sugli scudi tutta la galassia Fiat, Texor più 1,57%, Fiat SPA più 1,43%. I titoli industrial stanno guadagnando in questo momento. No, cambio di marcia per i titoli Fiat Industrial che perdono lo 0,43%, ma stavano guadagnando terreno anche questi stamattina. La borsa ha rallentato dopo la pubblicazione dell'indice sulla fiducia economica tedesco, lo ZEV, che ha mostrato in agosto, una decisa contrazione. Questo però non ha fermato la corsa dell'euro, che stamattina sul dollaro si è spinto fino a 1,45, adesso è 1,44,81. Ma l'altro tema del giorno, per la verità è un tema ormai da molti giorni, è l'oro, che ha sfondato i 1.900 dollari l'oncia, arrivando a 1.913,50 stamattina sui mercati asiatici. Petrolio, WTI, il greggio americano, è a 85 dollari, il Brent di Londra è quasi a 109. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di questa mattina, andiamo al nuovo giro di vite con la manovra di Ferragosto, appunto, sui trasferimenti di contante. Sentiamo. Niente più pagamenti in contanti per importi superiori ai 2.500 euro e nuove regole per assegni e libretti al portatore. La manovra di Ferragosto ha introdotto infatti nuovi paletti in vigore dal 13 agosto per limitare la circolazione di euro e contrastare l'evasione fiscale. Tetto dimezzato dunque a 2.500 euro per l'utilizzo dei contanti. Un limite che va inteso come cifra totale. Non è possibile, ad esempio, frazionare il pagamento, se superiore ai 2.500 euro, in diverse rate ciascuna di importo inferiore. E non converrà farlo, dato che sono previste sanzioni, in caso di violazione, che possono arrivare al 40% dell'importo oggetto del trasferimento. Tetto dimezzato dai precedenti 5.000 euro anche per gli assegni, in particolare per la clausola di non trasferibilità. Dallo scorso 13 agosto, infatti, la dicitura non trasferibile è diventata obbligatoria per assegni superiori a 2.500 euro, nei quali va inoltre indicato anche il nome e la ragione sociale del beneficiario. Nel mirino della manovra di Ferragosto, infine, anche i libretti al portatore. Quelli che al 13 agosto avevano un importo di saldo superiore a 2.500 euro dovranno essere estinti. Altrimenti c'è tempo fino al 30 di settembre per portare il saldo del conto sotto tale cifra. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire in diretta con le vostre domande su questo argomento. In alternativa ce le potete inviare al nostro numero di SMS 349 238 666, se abbiamo anche l'indirizzo di posta, che è quello della trasmissione: salvadanaio@radio24.it. Rossella, lo vediamo tutti i giorni al supermercato, in quanti ancora nel nostro paese alla cassa tirano fuori le banconete per pagare la spesa 50-100 euro, questi importi non rappresentano certo un problema. La questione di cui vorremmo parlare questa mattina riguarda transazioni commerciali di importo più elevato che non vengono tracciati per l'utilizzo del contante, quindi sfuggono ad ogni controllo, permettendo ancora un'evasione fiscale altissima in molti settori. Sì, infatti in Italia diciamo che l'utilizzo del contante è ancora molto elevato rispetto alla media europea. Il 90% dei pagamenti avviene cash, quindi 20 punti in più rispetto alla media europea, dove ci fermiamo al 69% dell'utilizzo del contante per le transazioni. Un recente studio dell'ABI ha calcolato che questo per il sistema paese costa circa 10 miliardi di euro, la gestione appunto di questo di questi strumenti non tracciabili. E si potrebbe, dando più spazio agli strumenti elettronici tipo le carte di credito piuttosto che altri strumenti più tracciabili, si potrebbe avere un notevole risparmio, quasi pari a una manovra, all'ultima manovra finanziaria. Quindi sì, come hai detto tu, in effetti sui piccoli importi non c'è problema. Gli importi che sono interessati sono quelli che partono da 2.500 euro. L'esempio che ho fatto del supermercato è tanto, l'ho utilizzato proprio così per effettivamente ragionare sul fatto che facciamo fatica, molti italiani fanno fatica effettivamente ad abbandonare l'utilizzo del contante, neanche al supermercato appunto utilizzano il bancomat o la carta di credito. Bancomat che peraltro sono diffusissimi nel nostro paese, il tema è che però sono poco utilizzati, addirittura molti non sono neanche attivi. Assolutamente, abbiamo adesso, sono cresciuti come numero le carte di credito, i bancomat sono arrivati a 37,5 milioni, però le operazioni fatte con i bancomat sono ancora poche se confrontate appunto con quello che avviene a livello europeo. Sono 26 all'anno in media contro le 61 dell'area euro, se 61 pro capite, quindi siamo sotto la metà. E infatti, allora abbiamo recuperato Antonio Iorio perché volevo partire con lui. Iorio, buongiorno. Abbiamo stabilito il contatto telefonico, che era un po' difficoltoso. Allora, negli ultimi 4 anni, lei lo raccontava ieri sul Sole 24 Ore, il limite all'utilizzo del denaro contante è stato modificato ben 4 volte. Per la verità, la cifra, il numero delle modifiche potrebbe essere anche più alto se si considerano anche le norme previste nel decreto Visco-Bersani dell'estate del 2006, che però poi sono state del tutto inattuate. E questa soglia del limite dell'utilizzo del contante è stata più volte rivista. Prima era di 5.000 euro, poi addirittura è stata innalzata a 12.500, per poi essere abbattuta di nuovo a 5.000, adesso portata a 2.500 euro. Secondo lei ci fermeremo qua? Ma guardi, questa è una bella domanda. A saperlo, infatti. Di vetro. A quest'ora stava al Ministero dell'Economia Iorio e non a chiacchierare con noi. La cosa che secondo me dovrebbe far rifletterci, che è importante, che spesso sfugge, che in realtà se fosse così semplice sconfiggere l'evasione toccando questo limite, ci sarebbe da chiedersi perché nessuno l'ha mai fatto, perché ci pensiamo sempre il giorno dopo, no? Perché qui quando c'è da fare manovre antievasione, la prima cosa si pensa a questo limite. Allora la domanda spontanea, secondo me, del cittadino normale è: ma perché non ci hanno pensato alla manovra precedente, visto che qui questa emergenza evasione è pressoché quotidiana? E poi l'altra cosa che mi permette di segnalare, che è molto importante, è che purtroppo molti cittadini ritengono che questo limite, quindi le sanzioni di cui la scheda parlava, scattino solamente se si fa un'evasione fiscale, invece no, anche quando il pagamento è pienamente lecito. Quindi, per capirci, se io, l'esempio che si faceva prima, se io vado a comprarmi una macchina usata e il rivenditore della macchina dice questa macchina costa 3.000 euro e mi fa fattura, quindi pienamente nella piena regola fiscale, e io pago, dispongo magari del denaro contante, esatto, oppure glielo do. E commettiamo tutti e due la violazione, quindi spesso questa norma con l'evasione in realtà non è che c'è sempre. Un caso eclatante che è successo e che succede purtroppo, addirittura di persone, di anziani che sono andati a pagare, sono casi rari, però è capitato, la cartella di pagamento all'agente della riscossione e l'hanno pagata in contanti. Però perché superava la soglia, al tempo era 5.000 euro, e hanno preso entrambi la sanzione. Quindi attenzione, perché non è legato a una violazione fiscale, cioè non c'è una violazione fiscale sottostante, la norma opera sempre. Quindi in teoria, se io prestassi 3.000 euro a mia sorella, semmai, non so come, dovessero scoprirlo, se glieli do in contanti abbiamo commesso una violazione entrambi. Questo tra l'altro era proprio un esempio del quale parlavamo prima dell'inizio della trasmissione con Rossella Cadeo. Se ovviamente mia sorella dovesse aver bisogno di questo denaro, io glielo trasferisco però attraverso bonifico bancario, dottor Iorio, l'operazione è regolare, il tema è non farglielo in contanti questo trasferimento di denaro. E poi ecco, c'è tutta la questione anche del frazionamento. Speriamo insomma che, visto che c'è adesso il percorso parlamentare, magari tutte questi aspetti, questi limiti trovino un aggiustamento. Secondo me bisognerebbe fare una norma un po' più ad hoc nel dire che i pagamenti per l'acquisto di beni devono essere tracciati. Mi spiego, perché io ho visto un caso che è eclatante purtroppo e che mi è capitato professionalmente, in cui un supermercato che a fine giornata incassa molto contanti, ma che fa tutti gli scontrini, e a fine giornata c'ha 10, 15, 20 mila euro in contanti, soprattutto il sabato quando tutti vanno a fare la spesa. E capita che arriva il fornitore di merci che gli porta le mozzarelle o gli yogurt per il giorno successivo, e lui, proprio per un motivo di sicurezza, cerca, certo, di non se lo tiene in cassa, non lo fa. E gli ha pagato superiore alla cifra che allora era 5.000 euro e si è beccata la sanzione. Quindi teoricamente questo andrebbe tarato un po' meglio. Supermercato dovrebbe dimostrare che praticamente potrebbe dimostrare che ovviamente quello è il frutto delle... È comunque una violazione. Secondo la norma, infatti. Va bene, insomma, tutte cose che speriamo vengano aggiustate in questo, ribadisco, percorso parlamentare. Detto questo, ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, qualcuno anche con delle parolacce. Che scocciatura, ci dice Roberto da Bergamo, e non utilizza la parola scocciatura, con queste carte. Sono un piccolo negozio e per come va il lavoro i pagamenti in carte sono troppo costosi. Roberto, questo lo sappiamo benissimo, che gli oneri che ai commercianti vengono applicati proprio per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici sono alti e questo scoraggia. Però noi stamattina stiamo parlando, per la verità, di un altro problema, di transazioni commerciali di importo ben più alto rispetto a quelli che forse vengono fatti nel suo negozio. Detto questo, Santa Croce, prima di andare ai tre campi di intervento, quindi cash, trasferimento di contante nudo e crudo, l'utilizzo degli assegni e le nuove normative che riguardano i libretti di deposito, c'è un ascoltatore che ha questa curiosità: quali sono i parametri degli altri paesi rispetto ai nostri 2.500 euro che a lui sembrano molto soglia appunto molto alta? Ma intanto una precisazione per quanto riguarda la scheda che è stata fatta, per solo sottolineare che il limite non è superiore ai 2.500 ma è pari o superiore, perché qualcuno potrebbe portare a fare un assegno a 2.500 e comunque già irregolare, è già in violazione. Ma questo perché quando si parla di limiti, poi alla fine il problema è che il legislatore una volta dice fino a, una volta superiore a, una volta uguale o superiore, quindi ecco, in questo caso ha detto uguale o superiore. Ecco, sul problema internazionale ovviamente nascono due temi. Allora, esistono limiti anche molto bassi in alcuni paesi, ma perché l'utilizzo della moneta elettronica è sicuramente più sviluppato. Più sviluppato per un motivo, come diceva prima il radioascoltatore nel suo... E forse anche il livello di evasione fiscale è molto più contenuto, per cui non hanno bisogno di intraprendere certi percorsi. Ecco. No, però sicuramente c'è intanto un provvedimento che è stato emanato a luglio proprio con la moneta elettronica all'internazionale, che dovrebbe portare a questo. Sicuramente ci sono le provvigioni che devono essere pagate al sistema delle carte, che in altri paesi non esistono. Ma evidentemente il problema di fondo è che, per esempio, in altri paesi, come per esempio in Belgio o come in Inghilterra, uno compra il giornale con la carta di plastica. Sì, no? Sì. Per giunta è molto più sicura. Senza nessuno scandalo da parte del commerciante, senza che lui si metta di traverso, perché ovviamente lui paga degli oneri effettivamente alti. Certo, c'è tutto un altro regime in giro. No, Santa Croce, l'ho intanto interrotta, a parte il fatto che devo andare in pausa, perché stamattina veramente con i telefoni non ci siamo. Adesso tenteremo di ripristinare anche il collegamento telefonico con Benedetto Santa Croce, che sento molto ovattato, chissà se si è messo all'interno della cabina del bagno dove stamattina stava passando le sue vacanze, invece noi l'abbiamo disturbato. A parte gli scherzi, adesso approfittiamo appunto della nostra prima pausa per ripristinare il collegamento telefonico anche con Benedetto Santa Croce, e poi riprendiamo la nostra chiacchierata con i nostri ospiti sui temi di questa mattina, per capire cosa cambia per i trasferimenti in contanti, cosa cambia appunto anche per la compilazione degli assegni, per l'utilizzo dei libretti di deposito, le cui soglie vanno abbattute, in caso contrario appunto questi libretti li si devono estinguere appunto per forza entro il 30 settembre. Poi commenteremo anche tanti messaggi che ci stanno arrivando su tutte le persone che ci raccontano di non avere nessun conto corrente, pertanto il loro unico modo di agire è quello di utilizzare cash per fare qualunque tipo di pagamento. Io veramente ancora mi stupisco del fatto che ci siano molte persone che non intrattengono nessun tipo di rapporto con la banca, e di questo anche parleremo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Voglio subito rispondere a questo ascoltatore che ci scrive: Debora, mia mamma ha prelevato 2.500 euro il giorno del mio compleanno, l'11 agosto. Rischia una sanzione, ciò vale anche per i prelievi. Allora, Antonio Iorio ci aiuta, adesso vediamo se riusciamo a recuperare Santa Croce. Santa Croce, guarda, vado subito a lei, perché questo è un tema che è lei che ha piuttosto articolato sul Sole 24 Ore di ieri. Ah, Iorio, cioè, ci capisco. Iorio, perfetto. Mi sembrava Santa Croce, avete anche una voce molto simile. Allora, che non rischia niente intanto, mi pare, questa persona, perché l'ha fatto prima del 13 agosto. Questo tipo di violazione scatta anche prima o dopo il 13 agosto, a prescindere, ma uno dei due che fa l'operazione, se è intermediario finanziario, la violazione non scatta mai. Quindi, per capirci, io posso andare in banca e posso prelevare 30.000 euro in contanti, non commetto alcuna violazione. Se io alla banca porto 20.000 euro in contanti, non commetto alcuna violazione. La violazione si perché commette, c'è un intermediario finanziario di mezzo. Non c'è mai violazione. La violazione si commette nel momento in cui uno dei due non è intermediario, quindi tra parti private, tra imprese, lì è la violazione. Per cui, per capirci, se la mamma della nostra ascoltatrice va a comprare con quei 2.700 euro in contanti oggi, si va a comprare il divano piuttosto che un'altra cosa e paga in contanti, perché come dicevamo prima, o dicevate prima, non c'è purtroppo, non tutti hanno il conto corrente o hanno la carta di credito al banco, ma in quel caso commette la violazione, ma se li porta in banca violazione non ce ne sono. Allora, a proposito di rapporto con un intermediario finanziario, dicevamo con Rossella Cadeo poco fa che esiste però tutto un mondo di non bancarizzati effettivamente che adesso stanno cercando di capire come comportarsi. Volevo sentire Gianfranco da Milano per commentare proprio questo aspetto. Gianfranco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Infatti io la domanda che volevo fare è questa. Io ho avuto dei disguidi, sono stato protestato. Non ho conto corrente, non ho assegni. E i pagamenti con cosa li effettuo? Gianfranco, vabbè, intanto io mi chiedo se ogni giorno lei abbia da fare pagamenti di importo superiore ai 2.500 euro. Tutti i giorni, ma spesso, perché anche se sono protestato sto lavorando. Certo, cioè, Gianfranco. C'è un'attività dove e spesso gli acquisti e le vendite sono superiori. E quindi lei anche la sua attività la gestisce completamente senza avere alcun rapporto con un intermediario finanziario? Esatto. Beh, ci sta telefonando un evasore praticamente, adesso non vorrei... No, perché io pago le tasse, dichiaro, faccio le fatture. Ma le tasse le paga regolare. Tutte quante in contanti, non fa per esempio un F24? Io mi faccio pagare in contanti. Aspetti lì perché adesso sono un po' in difficoltà. Antonio Iorio, come farebbe una chiacchierata lei con questa persona? Io consiglierei, se non ha alcun modo di fare il bonifico, perché essendo protestato mi hanno aperto un conto corrente, insomma se c'è qualche problema, dovrebbe andare ogni volta... per le somme superiori a 2.500 euro, andare in banca, portare i contanti e far fare l'assegno circolare a Iorio che gli fa la fornitura, per essere in regola, perché altrimenti non è causa di non sanzione questo, ripeto, a prescindere dalla fattura, che siamo certi che la fa il nostro ascoltatore, però se paga in contanti, purtroppo superiore a 2.500 euro scatta la violazione a prescindere. Beh, adesso a questo punto credo che anche alla luce delle nuove normative i suoi fornitori gli spiegheranno anche, non dico tutti, ma magari gran parte di questi gli spiegheranno un po' come stanno le cose. Certo, anche perché la violazione la commette pure il fornitore. Anche loro, certo. E poi che cosa succede? Che la sanzione se la dividono a metà, Iorio? No, sono solidari, quindi la pagano entrambi, dall'1 al 40%. Ah, quindi entrambi non a metà, ma no, per importo... No, consideriamo poi che c'è questa possibilità che se non si superano i 250.000 euro, quindi la regola, e se non si è recidivi nel corso di un anno, c'è la possibilità di fare un'oblazione pagando il 2%. Un'oblazione che cos'è? Vuol dire che io pago ed estingo la violazione. Quindi per capirci, io sono andato dal mobiliere, ho comprato un divano di 5.000 euro, ho sbagliato, ho pagato in contanti, nel momento in cui mi arriverà un verbale, quindi un accertamento, posso pagare il 2% dei 5.000 euro e ho estinto la violazione. Allora, i soggetti non bancarizzati, varrebbe la fine, stamattina sarà il caldo, mi si inceppa la lingua. Rossella, fare forse una bella inchiesta anche su questo mondo, perché ci sono molti ascoltatori che per la verità vedono nelle nuove misure, che molti interpretano come completamente nuove, in realtà è stata rivista di nuovo solamente la soglia per il trasferimento dei contanti, ma delle norme che limitano l'utilizzo del contante, che vogliono rendere tracciabile ogni operazione commerciale, stiamo parlando ormai da anni, per cui non c'è nessuna novità, ma molti vedono in queste nuove norme o comunque in queste nuove soglie un ennesimo regalo alle banche, perché a questo punto si obbligano le persone ad aprire conti correnti e quant'altro, quindi alle banche, Sebastiano scrive per esempio, le vedranno moltiplicati i conti correnti, le commissioni sui bonifici e l'incasso assegni. A parte Sebastiano che con la banca si può trattare, magari fare dei conti anche che rendano piuttosto contenuti i costi di tutte queste operazioni. Detto questo però effettivamente magari soggetti nella posizione dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima ce ne sono molti. Sì, anche Rossella. Persone che ritirano la pensione imposta oppure che non si avvicinano alle banche anche proprio per il costo del conto corrente. Sono adesso la cifra esatta non è disponibile, però sono circa un 3 milioni si pensa. Infatti a queste persone per queste persone si era pensato proprio a dei conti corrente base, no? Dei conti corrente che permettessero una serie limitata ma basilare, fondamentale di operazione come un tot di bonifici, un tot di prelievi, carta bancomat gratuita, proprio per avere una, anche questo target, questa platea di clientela bancarizzata ai minimi costi. Non sono conti che sono mai decollati troppo. Va bene, allora chissà che questa non sia l'occasione per farli decollare, per abbattere magari proprio anche le commissioni bancarie. Allora, non riusciamo a recuperare Benedetto Santa Croce, ma porteremo avanti serenamente la nostra trasmissione con tutta l'esperienza anche di Antonio Iorio, che ci risponderà tranquillamente a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Iorio, Daniela da Modena ci scrive: per favore affrontate il problema dell'agenzia viaggi. Caparra in contanti e saldo tracciabile è possibile? E se allo stesso contratto di viaggio sono iscritti più soggetti, come ci si comporta? Le è capitato di affrontare anche il tema dell'agenzia viaggi, Iorio? Sì, certamente. Il problema è questo, ci si comporta in questo modo. Nel momento in cui si va a pagare, si fa la caparra per il viaggio in contanti, il divieto scatta nel momento, con riferimento alle transazioni che fanno due persone, e basta, per capirci. Se andiamo io e due miei amici a fare un viaggio e andiamo da un'agenzia di viaggio e decidiamo di fare un viaggio che ci costa 10.000 euro e ciascuno di noi dà una caparra di 1.000 euro, ancorché noi la diamo singolarmente, in realtà sono 3.000, se nella ricevuta della caparra è specificato che 1.000 li paga Iorio, 1.000 rossi e 1.000 bianchi, non si commette alcuna violazione, perché ripeto, la violazione è riferita alla transazione tra due soggetti, nella specie il viaggiatore e l'agenzia. Se invece figura che la caparra l'ha dato uno per tutti e tre, sì, quindi solo Iorio, cioè i 3.000 euro di caparra li ha dati Iorio, allora commette la violazione. Ottimo, quindi Daniela, l'importante è che insomma nella documentazione che attesti le modalità con cui ha ricevuto questo denaro sia tutto molto chiaro: le persone che viaggiano sono tre, ognuno ha dato la caparra di sua competenza. Niente di tanto complicato, mi sembra, perché no, secondo lei le agenzie sono spaventate da questo? No, sono spaventate perché probabilmente... E poi cosa succede? Che poiché, come si diceva correttamente la scheda all'inizio, il limite vale anche per le operazioni cosiddette frazionate, probabilmente molti di questi viaggiatori vanno poi a pagare il saldo anche in contanti. Finché era 5.000 euro probabilmente era già un bel viaggio, 2.500 obiettivamente non è che sia tutto questo gran viaggio. Allora, soprattutto se si va a più di una persona, il rischio qual è? È che paghi solo uno, almeno ufficialmente, in contanti e poi gli va a dare il saldo in contanti, e poiché in questo caso è un'operazione frazionata, allora il limite scatta anche a distanza, mi spiego? Quindi una delle due dovrà essere tracciata, quindi fatta con assegno non trasferibile. Sono abbastanza incuriosita, per non utilizzare un altro termine, un altro aggettivo, della domanda che ci arriva da un ascoltatore che ci scrive: acconto per acquisto casa, bisogna fare assegno? Ma allora io mi chiedo, ma cioè, l'acconto per l'acquisto di una casa non è esattamente, credo, un importo di 200, 300, 400 euro? In quale altro modo bisogna effettuare un pagamento per un'operazione di questo tipo? Benedetto Santa Croce. In effetti è curiosa come domanda, perché fondamentalmente per un acconto di una casa ovviamente si hanno strumenti, si utilizzano sicuramente strumenti tracciabili, essendo somme molto elevate, quindi o che sia il bonifico, che sia l'assegno, che sia lo strumento insomma, tipico, no? Pensare che un soggetto si presenti con un rotolo di banconote da 500 euro, che come giustamente scriviamo con Rossella, sembra non l'ha vista nessuno, però in effetti ce ne sono più del 35% in giro, insomma. Per cui insomma è un po' strana come domanda. Sicuramente è tipico l'acconto di una casa farlo con uno strumento tracciabile. Infatti. Allora, Santa Croce, visto che abbiamo recuperato la telefonata con lei, prima che scompaia di nuovo, voglio affrontare un tema che so che a lei piace tantissimo, perché mi ricordo che nelle altre occasioni in cui abbiamo affrontato il tema appunto delle soglie per la circolazione del contante, il tema degli assegni postdatati, anche se questa è una parolaccia che in radio non si dovrebbe dire, così come non dovrebbe circolare da nessun'altra parte, lo avevamo affrontato a lungo con lei. Allora, ammettiamo di, siccome il limite precedente della compilazione di un assegno appunto era 5.000 euro, ammettendo di averne compilato uno il 10 agosto, ma di averlo reso incassabile solamente successivamente alla data del decreto contenente la manovra di Ferragosto, cioè successivamente al 13 agosto, ammettiamo appunto che sia postdatato, per dirla in maniera più elegante, incassabile dopo questa data. È una violazione quella che è stata commessa dalla persona che ha compilato l'assegno questa, oppure è tutto regolare visto che comunque l'assegno è stato compilato prima? Come lo si dimostra? Assolutamente, assolutamente. In questo caso è sicuramente in infrazione il soggetto, perché è la data di emissione, non è la data di compilazione del documento, ma è evidentemente la data indicata nello spazio dove c'è scritto data. Poi il problema è che nel momento in cui io l'ho consegnato a un terzo prima, addirittura quel documento potrebbe essere considerato comunque in violazione, quindi come emesso, e quindi incassabile anche prima. Il problema di fondo è che quindi se la data è dopo il 13 di agosto, l'assegno viene messo all'incasso dal soggetto prenditore presso una banca, oppure viene ovviamente girato ad un altro soggetto e poi incassato, ecco, l'assegno viene regolarmente pagato dalla banca, l'infrazione è stata commessa perché l'importo indicato è, poniamo il caso, di 5.000 euro, ma attualmente il limite è di 2.500 e quindi supera il limite, e quindi la banca è costretta innanzitutto a fare una segnalazione al Ministero dell'Economia, e oltretutto appunto poi arriveranno le sanzioni che possono essere appunto fino al 40% di questo, di questo ammontare. Quindi verrà pagato regolarmente l'assegno, ma questo produce una certa conseguenza. Certo. Sicuramente i postdatati sono uno strumento illegale, irregolare, che vengono utilizzati frequentemente nell'ambito del commercio, perché in questo caso evidentemente, specialmente attraverso la girata, si ottiene il risultato di rendere quel documento ancora più non tracciabile, perché evidentemente i passaggi intermedi non vengono assolutamente visti, perché poi viene emesso dal primo e incassato dall'ultimo, quindi gli unici soggetti che poi rimangono in qualche modo visibili sono l'emittente e il prenditore. Quindi a fondo di un assegno postdatato genericamente abbiamo non solo un problema di spostamento della data di incasso e quindi un aggiramento, se vogliamo dire, della cambiale, dell'ipotesi di cambiale, quindi dell'imposta di bollo, ma abbiamo anche, nella maggior parte dei casi, anche una evasione fiscale, perché si tramuta in uno strumento che, almeno in coloro che vengono a circolare all'interno delle girate, sono totalmente neri, quindi totalmente non tracciabili. Non tracciabili. Sto notando dai messaggi che ci arrivano, adesso toccheremo questo aspetto dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, che molti stanno capendo dalla nostra trasmissione, probabilmente dovremmo approfondire un po' l'aspetto assegni, che non è più possibile mettere assegni per niente. Adesso non siamo stati così esagerati anche nello spiegare l'argomento che volevamo affrontare questa mattina. Gli assegni di importo superiore a 2.500 euro sono possibili, solo se però è apposto sull'assegno il termine, la clausola di non trasferibilità. Adesso ci torneremo anche su questo aspetto, ma ormai le banche quasi in automatico consegnano carnet appunto con la dicitura espressamente indicata, per cui credo che non dobbiate temere nulla, ma se non sono stata chiara io, adesso ritorneremo con i nostri ospiti ad esserlo ancora di più, a tra poco. Allora, un attimo, concludo il tema degli assegni con Benedetto Santacroce e poi torno anche agli altri argomenti con gli altri ospiti. Mi aiuta a chiarire ai nostri ascoltatori che non è che la nuova norma bandisce completamente l'utilizzo degli assegni, perché non mi pare di averla detta in maniera così drastica all'inizio, Santacroce. Gli assegni che io devo emettere, che comunque hanno un importo superiore a 2.500 euro, l'assegno è uno strumento assolutamente tracciabile. Cosa ci deve essere scritto però sopra? Allora, come diceva lei, il discorso di fondo è che le banche emettono assegni già con la clausola di non trasferibilità in automatico, poi il cliente può chiedere l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Certamente non c'è un divieto a emettere assegni superiori a 2.500 euro, anche perché evidentemente il pagamento è tracciato, perfettamente tracciato. Ci sono due condizioni che deve avere questo assegno per essere emesso superiore ai 2.500, deve avere la clausola di non trasferibilità e l'indicazione esplicita del beneficiario di questo assegno. Quindi sostanzialmente la possibilità di emettere assegni sopra quella somma sono sicuramente possibili. Ecco, un'altra norma che cambia è l'assegno a me medesimo, quegli assegni che vengono girati direttamente a se stessi. In questo caso non possono essere più fatti nei confronti di terzi, ma possono essere fatti solo, sono solo bancabili, si dice, possono essere fatti solo con la banca. Quindi il limite di 2.500 euro non è un limite che impone un divieto all'utilizzo dell'assegno. L'assegno si può continuare a utilizzare, ma questo assegno deve essere utilizzato con la clausola di non trasferibilità e con l'indicazione esplicita del beneficiario di questo assegno stesso. Renna, in modo tale sì. che la transazione avvenga tra due soggetti e viene blindata. Quindi in effetti poi quello che comporta è che questo assegno, nel momento in cui è superiore a 2.500, non può essere più trasferibile, non si può trasferire se non bancarlo, se non portarlo in banca e monetizzarlo. Abbiamo ancora il tema dei libretti di deposito da affrontare, mi tengo in serbo questo argomento per toccarlo dopo con Rossella Cadea. Adesso però Renato da Milano. Renato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Si dica. Le chiedevo questo, allora, nel caso in cui ci siano collaboratori domestici, sì. si può continuare, anche se per importi mensili inferiori ai 2.500 euro, si può continuare il pagamento in contanti oppure bisogna ricorrere al bonifico piuttosto che all'assegno? Antonio Iorio, allora, intanto Renato ha detto comunque l'importo che devo versare è inferiore rispetto direi a questa soglia indicata dalla norma. Direi sicuramente di sì, se l'importo mensile è inferiore a 2.500 euro senza problemi. L'importante è che questo sì. collaboratore domestico sia tenuto assolutamente in regola all'interno di questa abitazione. Marco da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo sapere se è diventato reato detenere contanti, perché io dal 2006 non ho più il conto corrente. Sì. E ad esempio l'assegno dello stipendio lo deposito su un conto, cioè un libretto postale, sì. e poi ritiro il contante e me lo tengo in casa. Io volevo sapere, siccome da diverso tempo, poi le bollette ad esempio le pago normalmente, sì. o all'Ipercopo, alla posta, come un po' per la situazione. Allora Marco, è una bella domanda la sua, perché comunque mi sembra un profilo piuttosto semplice quello di Marco. Antonio Iorio, lui dice: io comunque il mio non è alcuna violazione, esattamente, sì, perché lui non esegue transazioni commerciali che in qualche maniera possono essere può essere attribuita un potenziale rischio per commetterlo rispetto ad altri che non hanno il contante disponibile, perché avendolo disponibile magari è più tentato a pagare somme superiori a 2.500 euro in su in contanti, però detenere a casa 30.000 euro in contanti o 50.000 non è questa violazione. Si espone ad un altro tipo di rischio, che è quello appunto che è abbastanza strano, insomma, ma però non a quello. Uno poi dimostra tranquillamente la provenienza, non ci sono problemi. Allora, come viene disciplinato adesso l'utilizzo, Rossella Cadeo, dei libretti di deposito? Anche questi delle forme di risparmio che ancora vengono privilegiate da molte famiglie italiane, soprattutto ovviamente magari dai nonni che li regalano ai nipotini, perché ci mettono dentro insomma delle piccole somme, però anche qui bisogna adesso stare attenti al loro utilizzo. Ecco, sono questi che sono stati presi in considerazione dalla manovra, sono i libretti al portatore, quindi basta presentarlo in banca per ottenere... Sono anonimi praticamente. Sono anonimi, ecco, si parla di quelli anonimi, che sono diversi da quelli di risparmio postale o bancario al portatore. Che è il tradizionale libretto nominativo, sì, diciamo, sì. Libretto di risparmio nominativo. Questi sono anonimi, anche questi appunto contengono la caratteristica della non tracciabilità, della non trasparenza. Anche per questi vale la soglia detta prima, cioè i libretti di importo pari o superiore a 2.500 euro vanno ricondotti a un limite inferiore appunto a 2.500 euro, oppure estinti oppure trasformati in libretti al portatore, il tutto entro il 30 settembre. Benedetto Santa Croce, se io ho un libretto di deposito all'interno del quale ho 5.000 euro, non facciamo che ne ho 4.008, per sfuggire alla norma io ne voglio aprire un altro, ne lascio uno con 2.400 euro e ne apro un altro con un importo di 2.400, appunto, che mi porta a 4.008, non mi ricordo la cifra che ho utilizzato prima, posso farlo? Ma allora, l'apertura di nuovi conti libretti al portatore è una operazione possibile, appunto per importi molto, molto bassi, per cui non ho limiti di questo genere. Sicuramente il limite che ho è che non posso mantenere quel libretto al portatore, perché quel libretto al portatore evidentemente ha una... importo che andrebbe a essere superiore al precedente. L'idea del legislatore in effetti in passato era quella proprio di estinguerli totalmente, questi libretti al portatore o libretti anonimi, e ci ha provato un paio di volte ad arrivare ad una norma di completa cancellazione, però fino ad oggi non è arrivata a questo, insomma, li ha solo ridotti, individuando in questo meccanismo una possibilità di ridurre fenomeni che non sono solo quelli di evasione, ma anche quelli di corruzione, di concussione, quindi utilizzati in vari reati, insomma. Ho un negozio di compra oro e registro con codice fiscale gli acquisti superiori ai 2.500 euro e pago in contanti. Antonio Iorio, tutto regolare? Le ripeto il caso? No, è chiarissimo, il caso è chiarissimo, compra e vende oro, e per i fini del testo unico di legge pubblica sicurezza quel commerciante è tenuto ad un registro in cui deve identificare le persone con cui fa operazioni, cioè sia chi glielo cede sia chi glielo acquista. Però questo non c'entra nulla, nel senso che lui ha sempre l'obbligo di identificare queste persone, clienti e fornitori, ma se fanno operazioni per contante, secondo il 2100 euro non si possono fare, perché lui non è un intermediario finanziario. Allora, stavo cercando intanto di così capire tra gli sms quali altri dubbi serpeggiano fra i nostri ascoltatori. In molti ci dicono che non siamo stati molto chiari sulle novità, e insomma, allora magari le possiamo approfittare di questi ultimi minuti della trasmissione per ribadirli in maniera molto sintetica. Per esempio, prima, per fare un trasferimento di denaro contante c'era il limite di 5.000 euro, Rossella cade, adesso questo limite è stato dimezzato a 2.500 euro. Cosa intendiamo per trasferimento di contante nella forma più banale? Pagamenti tra privati, o tra privati e imprese, o tra tecnici, anche, non so, una riparazione in casa. Arriva il muratore che mi deve fare la nuova parete di cartongesso. Il costo di questo lavoro è di 3.000 euro, ammettiamo. Allora, a parte il fatto che la tentazione di pagarli in contanti è sempre forte, perché il tizio si dice vabbè, ti faccio ovviamente un bello sconto, però intanto lì bisogna essere coraggiosi da chiedere una regolare fattura e pagare o con un assegno che rechi il nome del beneficiario e la clausola della non trasferibilità, o con bonifico bancario o con carta di credito se la persona è senz'altro, se siamo in un negozio va benissimo utilizzare la carta di credito al POS, un tecnico che viene in casa, un muratore piuttosto che un idraulico, magari non, ovviamente non hanno la possibilità di utilizzare la carta di credito, in questo caso comunque o bonifico o assegno, tutto con i dati del beneficiario chiari, con la clausola di non trasferibilità. E quindi insomma, mi sembra tutto molto chiaro, altro che non chiaro. Il tema è che prima tutte queste operazioni riguardavano una soglia di 5.000 euro, adesso dalla manovra appunto del 13 agosto la soglia si è dimezzata a 2.500. Santa Croce, c'è qualcosa sugli assegni che non abbiamo detto e che va specificato magari ai nostri ascoltatori? Ma ripeto, non debbono preoccuparsi più di tanto del divieto di utilizzare gli assegni, perché ripeto, in automatico gli vengono dati con la clausola di non trasferibilità e indicano il beneficiario. Quello che è chiaro è che gli assegni liberi, nel momento in cui per esempio un commerciante dice non mettere il beneficiario, o comunque metti a me medesimo, anche in quei casi evidentemente sta commettendo delle irregolarità nel momento in cui ha superato la soglia fatidica del limite dei 2.500 euro. E quindi evidentemente il comportamento da tenere in questi casi è, come diceva lei, di fermezza e dire no, io te lo infesto, do il beneficiario. Poi quello ci fa un bello sconto del 50%. Qua. Attenzione quando si mettono e tutta guardare la se già è inclusa la clausola di non trasferibilità e poi indicare chiaramente il beneficiario. Allora, abbiamo detto che la manovra di agosto appunto ha intrapreso il cammino parlamentare, 60 giorni di tempo per essere trasformata in legge, chissà quanti cambiamenti ci saranno e chissà che questo appunto non ci obblighi di nuovo a tornare sull'argomento, ma lo faremo sicuramente molto volentieri. Grazie a Rossella Cadeo, Antonio Iorio, Benedetto Santa Croce per essere stati con noi, a Gaia Romani per l'aiuto in redazione, Pietro La Corte in assistenza tecnica. Noi ritorniamo anche domani, buona giornata a tutti.